centro della notte ti congiunge a me, mi porti dentro il cuore oltre le tenebre, amore sessuale oscuro delle fantasie, puoi farmi male un bene, dirmi per le colpe mie, papiria. Puoi farmi male o bene.